Carissimi, ma davvero carissimi ascoltatori, e non è una frase fatta. Uno strano destino ha voluto far coincidere l'ultimo giorno delle nostre trasmissioni con una domenica, per cui non dobbiamo nemmeno prenderci a forza lo spazio per far sentire un'ultima volta le vostre voci assieme alle nostre, le voci di tutti noi intrecciate. Voglio innanzitutto ringraziare a titolo personale, ma sono sicuro che tutti i miei colleghi e amici della redazione sarebbero d'accordo, ognuno di voi non solo per l'affetto, ma per l'incredibile energia spesa in questi mesi nel cercare di intervenire praticamente per fermare la chiusura della nostra emittente. Sono stati mesi di valanghe di lettere, appelli, iniziative, concorsi, lettere ad ambasciate e alla dirigenza della NHK, visite personali fin qui in Giappone. Sono stati mesi ricchissimi, infine, e questa è l'amara ironia, di nuovi ascoltatori. E nello stesso tempo voglio ringraziare anche chi, e non sono pochi, tra il personale interno della NHK, ha avuto e continua a avere a cuore la radio. Non solo nella redazione italiana, ma anche in quelle vicine di banco, della Svezia, della Germania, dello spagnolo, di quelle che chiudono e quelle che forse chiuderanno un giorno non troppo lontano, coloro che sono ancora qui e coloro che sono andati in pensione. È grazie alla loro incredibile professionalità e dedizione che tutto questo è stato possibile. Della chiarezza ci ringrazia Dario Monferini di Milano, tornato dal suo viaggio in Sud America, la chiarezza con cui abbiamo preannunciato la nostra chiusura, ma chiare dovranno essere sentite anche le vostre voci. Eccone alcune, purtroppo solo alcune. La voce di Gioacchino Stallone da Trapani, che ha mandato porta fortuna per ognuno di noi e dice: non dimenticherò mai la redazione italiana di Radio Giappone, avrete sempre un posto nel mio cuore. La voce di Agide Melloni di Imola, che dice: con voi chiudo un pezzo della nostra storia personale, siamo stati giovani con voi e avete contribuito a farci sentire un po' meno europei e un po' più aperti ad altri mondi così diversi dal nostro. Vi scriverò ancora per farvi sapere che un vostro amico lontano vi è vicino. La voce di Franco Baglione di Frosinone, che dice: vi chiedo se potete inviarmi qualche vostra testimonianza della radio in italiano dalla parte opposta del mio mondo, che mi faceva sentire italiano. La voce di Luigi Rummolo di Genova, che dice: prima di sintonizzarmi mi ero affacciato alla finestra e poi ho acceso la radio. E mentre stavo alla finestra è partita l'inconfondibile sigla di apertura delle vostre trasmissioni. Due mondi che venivano a contatto, così distanti ma così vicini. Un fascino e una malinconia indescrivibili. La radio non morirà mai. La voce di Stefano Forbicelli da Roma, che su un foglio di carta velina, che sembra venire da altri tempi, ha battuto velocemente a macchina quanto segue. Questa mattina, dopo avervi ascoltato e dopo aver camminato pensieroso per le vie del quartiere Testaccio, ho pensato di scrivervi. Tante cose sono state dette e non oso pensare al vuoto che sentirò il primo di ottobre. In conclusione, sembra di dover dire addio ad amici con i quali si è tenuto un contatto per un tempo che alla fine sembra essere stato breve. E allora, adesso per tutti voi, un brevissimo saluto da parte di ognuno di questi amici. Cari amici, è il momento di salutarci per davvero dopo tanti anni passati in compagnia. Forse per tutti noi si chiude un ciclo di vita con l'interruzione di queste trasmissioni. Spero che proverete nostalgia, perché io ne proverò tanta. E un grazie di cuore a tutti voi e mille auguri di tante cose belle nel futuro da Violetta Mastragostino. Signore e signori, è stato un lungo viaggio quello fatto finora, un viaggio durato quasi 20 anni, in cui si può dire che abbiamo attraversato insieme una bella fetta di storia. Basti dire che siamo passati dalla macchina da scrivere al computer. Gentilissimi ascoltatori, io detesto gli addii, quindi non mi rimane che ringraziarvi ancora e salutarvi affettuosamente. Da Michele, ciao. Cari ascoltatori, sono Anna Maria Mazzone. Leggere i notiziari qui a Radio Giappone è stata un'attività che ha accompagnato le mie domeniche da 14 anni a questa parte, e l'idea che non dovrò più venire qui in studio mi lascia un gran senso di vuoto. Sperando di essere riuscita insieme ai miei colleghi ed amici della radio a farvi sentire che il Giappone non è poi così lontano, vi saluto e vi auguro tanta gioia. E se potete, venite in Giappone a dare un'occhiata di persona a questo incredibile paese. Ciao da Anna Maria. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, sono Elena Sato. E dopo 8 anni passati ogni sabato davanti al microfono, ora mi sembra strano dovervi salutare, e pare proprio definitivamente. L'esperienza Radio Japan, oltre a permettermi di comunicare a voi in Italia le notizie del giorno su Giappone e Asia, mi ha consentito di seguire con maggiore attenzione gli avvenimenti di attualità. Una piacevole sorpresa è stata poi l'incontro con alcuni fedeli ascoltatori, venuti fin qui dall'Italia a farci visita. Grazie ancora per avermi seguito la mattina del sabato. Arrivederci. Carissimi ascoltatori, sono Alessia Borelli. Quello a Radio Giappone è stato molto più di un semplice lavoro. Spero di essere riuscita ad aiutarvi a fare un po' di luce su questo mondo così lontano dal nostro, il Giappone, eppure così vicino. E di essere riuscita a trasmettervi, oltre alla mia voce, anche un po' della passione che mi ha accompagnato negli ultimi 6 anni e mezzo, assieme agli splendidi colleghi giapponesi e italiani con cui ho avuto la fortuna di compiere questo viaggio. È con questo desiderio che mi ha commiato da voi, cari ascoltatori. A risentirci. Gentili ascoltatori, buongiorno. Al microfono Davide Ereditato. Lavorare a Radio Giappone è stata per me una bellissima esperienza professionale. Ho potuto vedere da dentro cosa significa la cultura del lavoro in Giappone. Lavorare alla NHK richiede serietà, preparazione, applicazione, organizzazione. Non lasciare mai niente al caso. Anche adesso che la nostra esperienza è oramai alla fine, vedo in tutti i membri della redazione, giapponesi ed italiani, la stessa concentrazione e professionalità di sempre. È stata una grande soddisfazione per me farne parte ed aver contribuito, anche se in piccola parte, ad un legame di amicizia tra Giappone ed Italia. Un saluto da Davide Ereditato. Carissimi ascoltatori, sono l'ultima arrivata in redazione, Marcella Morganti, ed è stato un vero piacere lavorare per tutti voi in questi anni. Spero, anzi sono sicura, che manterrete vivo l'interesse per il Giappone e vi ringrazio tantissimo dell'ascolto, del continuo sostegno e vi saluto calorosamente. Ciao! Buongiorno, sono Kyoko Somea, un membro dello staff giapponese della redazione italiana. Per 3 anni mi sono occupata della posta. Grazie a voi ascoltatori ho scoperto il fascino della radio. Purtroppo, nonostante il vostro grande appoggio, oggi dobbiamo chiudere la redazione italiana. Spero che tramite Radio Giappone abbiate approfondito le vostre conoscenze del nostro paese. Grazie di cuore e ciao. Buongiorno, sono Hanamoto Tomoko. Ho fatto l'assistente della redazione italiana dal 2000 al 2004. Poi sono tornata a far parte della redazione appena da questo marzo. È con grande tristezza che vi saluto oggi, cari ascoltatori, ma non prima di avervi ringraziato nuovamente per le vostre lettere, cartoline dalle vostre città, fotografie e biglietti di auguri con i quali ci avete trasmesso la vostra passione per la radio. Grazie ancora e arrivederci. Cari amici, sono Elisabetta De Lorenzi ed è venuto il mio turno di salutarvi. Sono 20 anni che abito a Tokyo e 19 che collaboro alla sezione italiana di Radio Giappone. So che parecchi di voi ci seguono da molto prima che io cominciassi. Per me si chiude un importante capitolo della mia vita e anche per voi, in modi diversi, so che è un momento triste. Ma ogni fine prelude a un nuovo inizio e chissà che non sia addirittura migliore. Mi rimane da dire ancora una sola cosa. Grazie di cuore a tutti quelli che in questi anni mi hanno ascoltata, apprezzata, incoraggiata, magari anche criticata, ma soprattutto arricchita dentro. Non vi scorderò mai. Buon proseguimento a tutti e, perché no, a risentirci. Chiudo con la voce del prezioso Fiorenzo Repetto di Savona che dice: «Sono appena uscito dal metrò, apro la borsa e accendo il ricevitore già sintonizzato su di voi, cuffie in testa. Ah già, dimenticavo, piove. E allora sono all'interno di una cabina telefonica. La gente passa e sorride, dirà che sono matto. Sì, caro Fiorenzo, matto di una follia che vorremmo anche noi ci continuasse a fare compagnia per almeno un altro po'. Un saluto dal cuore, da Alessandro Clementi».